L'imprestito grammaticale ha fondi multipli, parti del discorso contadino, dove le parti sono sì le voci e il discorso e il costrutto che esse organizzano, adempiono, ma sono anche propriamente parti, sì, individui, persone, strutturalmente, biologicamente i contadini medesimi, tutti. Parte il contadino di Castelbuono e parte il contadino di Capodorlando, parte è quello delle Madonie ed è quello dei Nebrodi, parti sono i contadini dell'Agrigentino, del Siracusano. E il discorso? Il discorso è un ordito di fonemi ed è pure il logos contadino, intelletto, discorso, parola. Il discorso è uno e molteplice, molteplici essendo le parlate. Quante vallate, tante parlate. Le quali tutte, distinte, però non scorporabili, pulsano dentro la galassia del discorso contadino, che è supremamente uno. Perché salvarle, preservarle codeste parlate, codesto discorso? Ma perché un universo che nelle sue viscere, spazialmente, contiene tutto, la natura e la soprannatura, l'umano corporale e la sacralità dell'umano. Si eredita, si trasmette il parlar contadino per alfabetizzazione amniotica. Raccogliamo il canto popolare, che è peculiarmente canto contadino, non raccogliamo la parola, la parlata, che è pure fonazione, segno, tramite inventivo e comunicativo, linguaggio, il linguaggio contadino. Ci si è fermati aristocraticamente all'ugola, all'emissione impostata. Non si è scesi oltre, paura di incatarrarsi, nella trachea, per esplorare la sede dell'emissione fisiologica, naturale, dell'oralità popolare. Sporgere lo sguardo, l'orecchio, nell'arcano umano cavo orale della cultura contadina. Noi siciliani, ma con eguale sollecitudine, io postulerei i recuperi fonotecnici delle parlate locali e regionali di tutta Italia. Noi siciliani, dicevo, abbiamo ad esempio un corpus, il corpus appunto dei canti popolari siciliani, più esattamente delle musiche popolari siciliane. Ebbene, perché non anche, non ancora, un corpus di parlate, il corpus del discorso contadino siciliano? Eppure entrambi, come vertebratura, costituzione, ideatività, estri, gesti, fantasie, espressioni, immagine, somatizzano il medesimo corpo, che è quello del contadino, tutto intero e coi segni salienti. Entrambi sono la rappresentazione del corpo del contadino come dell'anima, che ne è il fittone. Un di più d'accensione, un andamento diverso, una diversa tessitura, e dalle canne della gola del contadino spicca il canto, da quelle canne che non infrequentemente attingono le risonanze, gli echi, l'elevazione delle canne d'organo. Il discorso, il linguaggio contadino è l'altro canto fermo, è il gregoriano della terra perché terreno, della terra perché terragno. Come comunicano dunque i contadini? Come si esprimono? Come solcano nei picchi, nei piani, le loro giornate? Vedremo, sentiremo parti del discorso contadino. Io ho scelto per questa trasmissione come parte un contadino di Castelbuono, nelle Madonie, come parte del discorso, la sua parlata. C'è immaginosa plasticità, sapidezza nella parlata di Castelbuono. Ha un colore, un tepore vocalico, iridescenze melismatiche, e gli alveoli irrorano le parole. Il parlante è Peppe, dal flusso narrativo alle quote più temperate, ho isolato quattro brani, emblematici di una tipicità, di una frequenza colloquiali, quattro racconti, veri racconti orali. Sono vicende, storie, memorie, come le chiamano qui codeste cose tramandate, o viste, udite, vissute, narrate. La narrazione, infatti, si metabolizza in memoria affabulativa, fuori di ogni contiguità temporale del fatto, dell'evento, a volte con un ritmo circumediano, prodigiosamente, in un volgere di giorno. È una costante, la più eletta del discorso contadino, è la soglia omerica del parlar contadino. Le vicende, le storie, le suscita la giornata stessa, coi suoi accadimenti, col suo corso, quello latino, diritto, chiaro è quello contrario. Peppe ha 78 anni. Evidente è in lui la peronospora dell'età. Ancora verdissimo però è il tralcio del linguaggio. Gli spunti, le occasioni sono tante e varie. La vigna malata, quell'olivo, pigro, i prezzi, un gregge che passa, e il suo pastore, l'automobile, e il suo guidatore. Un altro morto passa, dice Peppe. la luna e le sue avventure con gli astronauti. Non scherziamo, Carusi, ammonisce Peppe, ma come hanno fatto ad andarci? Come si fa a raggiungerla? Che è in terra? Io so che oltre quella vallata c'è San Mauro, poi Petralia, appresso Geraci, appresso ancora Sperlinga, ci posso andare camminando, ma come si fa ad arrivare sulla luna che è in aria? Questa, si intenda, non è la registrazione pura e semplice di una voce. È un segnale, appena in parte fonico, è l'indicazione geografica, etnica, per conoscere, sentire Peppe e la sua comunità. La condizione di Peppe è la condizione della comunità, quel modo al presente in cui i contadini volgono la loro esistenza, le loro giornate nell'esistenza, sublimemente ignari di una civiltà intestata a loro, quella civiltà contadina che, come nozione categoriale, fino ad oggi, a contadino caldo, è un reperto soltanto per certi arcadi del populismo in mocassini. Questa che propongo al vostro ascolto è pertanto una registrazione semplicemente nel suo mero senso strumentale. È più un'uccellagione, per gli appostamenti, la fortunosità. Un'uccellagione tuttavia senza polveri e spari, senza panie, dove uccelli non sono stati abbattuti, ma sono stati fatti posare, fiduciosamente, posare e cantare, posare e contare. Per rendere più chiari e appetibili i racconti, soprattutto agli ascoltatori fuori dell'area madonita, darò, prima di mandarli in onda, alcune tracce per l'ascolto.